got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. In una parola, sono rimasto folgorato e mentre mi trovavo ancora folgorato sono stato informato da mia figlia, a cui non fa difetto la decisione, come pure a sua madre, che questo matrimonio si sarebbe fatto qualunque cosa sua madre o io ne pensassimo. Quanto a voi due e ai problemi che dovrete affrontare, a me sembrano quasi inimmaginabili, ma tra questi io non ci sono. Chiunque potrebbe obiettare, e non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio, e cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta, e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli, che cavolo aspettiamo a mangiare? You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. La voce che avete sentito, probabilmente l'avete riconosciuta, è quella dell'indimenticabile Spencer Tracy, protagonista di Indovina chi viene a cena. Il tema del film, un film degli anni 60, resta ancora attuale, ma noi pensiamo che i pregiudizi, l'integrazione sono tutte cose che magari ci sono anche a tavola. A volte riusciamo a superare le nostre avversioni per certi tipi di cibo perché i gusti a tavola, come nella società, cambiano. Di questo parliamo nella nostra trasmissione, anche in questo puntata in cui abbiamo ospite, in questo caso non un nuovo italiano, ma diciamo così un italiano di ritorno. Allora indovinate chi viene a cena a Radio 24 oggi. Benvenuto Gio Bastianich, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Bastianich, per i pochi italiani che non lo conoscono ancora, è uno dei tre giudici della trasmissione televisiva Masterchef, sia della trasmissione versione americana, sia della trasmissione italiana, che è un grande successo televisivo e ormai anche un fenomeno di costume in Italia. Si parla continuamente, ovunque ormai, di Masterchef. Bastianich, lei si definisce un imprenditore, un restaurant man, è così? Esatto, io il mio lavoro principalmente è quello di gestire ristoranti, e produco anche vino in Italia, ma il lavoro principale è quello di ristorazione. 24 ristoranti nel mondo, di grande successo negli Stati Uniti, dove lei tra l'altro è nato. Sì, io sono nato in America, sì, esatto. Da genitori italiani che sono nati, se non sbaglio, tra l'Italia e l'Istria, così ci racconta la sua famiglia da dove proviene? Sì, vengono dall'Istria, erano istriani italiani che erano profughi dopo la seconda guerra mondiale, sono arrivati a New York nei primi anni di 50 e qui hanno cercato una nuova vita. Sua mamma è diventata tra l'altro molto famosa per la cucina, adesso è famosissima per le trasmissioni televisive, per i ristoranti e così anche suo padre Felice. Qual è il piatto, Bastianich, della sua infanzia? Oh, sono tanti piatti, ma non so, un piatto che mi ricorda molto la nonna che cucinava sempre i gnocchi in quazzetto di anatra. Era un piatto molto classico, anche da noi si faceva tantissimo risotto con granchio, risotto, vari risotti, la domenica si mangiava risotto a casa sempre. E cosa si beveva? Perché appunto lei è un produttore di vino e viene da, i suoi genitori vengono da una zona dell'Italia, tra Istria e Italia, dove c'è un ottimo vino. La zona zona, il Colio orientale, Colio di Friuli Venezia Giulia, dove si produce principalmente sicuramente i più grandi vini bianchi d'Italia. Loro producevano storicamente, mio nonno era austro-ungarico, produceva vino e io un po' tornato a cercare questa tradizione familiare, ho iniziato a produrre vino anche io in Friuli nel 97. Ma da bocca picchita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, ma da bene in capo di I love you, fa l'americano. La sua mamma, che è così famosa, appunto come dicevamo, la mamma Linda, cucinava anche a casa? Sì, sì, sì, cucinava sempre, cucinava al ristorante personalmente, ma anche a casa, specialmente la domenica, la famiglia tutti al tavola, lei cucinava, ha una grande passione per la cucina, piace cucinare non solo a livello professionale, ma anche a livello familiare. Adesso, da italo-americano, invece il suo piatto preferito dell'America di oggi, qual è? Non so, son tanti diversi piatti. Io ultimamente cerco di tenermi un po' in forma, allora cerco di evitare piatti molto grassi, ma comunque mangio tantissimi primi, mi piacciono le paste, anche pasta secca, pasta fatta in casa. I primi sono sempre un piacere che io cucino spesso per i miei bambini, anche tanti primi. Ah, quindi lei è una scoperta, uno chef oltre che un restaurant man. Più cuoco in casa che chef, ma comunque mi do di fare, faccio dei primi eccellenti, direi. Un papà cuoco, insomma. Esatto. E che cosa cucina per i suoi figli? E loro mangiano, piacciono tanto le cose molto semplici, una pasta al pomodoro, le penne alla norma con la ricotta e melanzane, orecchiette, broccoli wrap, cima di wrap e salsiccia, sai, questi piatti, la spaghetti vongole, questi piatti che rappresentano un po' tutta l'Italia. Adesso sempre più gli italiani all'estero hanno, anche grazie a persone come lei, una fama diversa da quella che avevano probabilmente gli italiani quando i suoi genitori erano molto giovani negli Stati Uniti. È cambiata questa immagine? Si ricorda quando era piccolo e andava a scuola come venivano magari raccontati gli italiani? Come si è mai vissuto magari anche su di lei un pregiudizio? Io racconto questa storia nel mio libro Restaurant Man, che negli anni 70, quando i miei hanno aperto il primo ristorante, infatti nel 68, io mi ricordo che andando a scuola ero imbarazzato che i miei parenti avevano un ristorante, perché era un lavoro difficile di immigranti, sai. E adesso in 40 anni è cambiato tutto il mondo della ristorazione, adesso è una cosa molto glam, almeno a New York, è molto visto su televisione. Allora per noi una cosa è che in 40 anni è cambiato completamente l'immagine del ristorantore. E io ho vissuto un po' questa vita negli ultimi 40 anni, da bambino stavo sempre nei ristoranti con i miei parenti perché loro lavoravano sempre, io andavo dopo scuola al ristorante a fare i compiti, a mangiare con la famiglia, allora io ho vissuto un po' la vita da bambino fino a ora. Adesso è l'unica vita che ho mai conosciuto, ma in 40 anni è cambiato tantissimo, come anche la percezione del cibo italiano in America è cambiata, non è più legata solo agli spaghetti alla pizza, insomma è diventata più sofisticata. Immagino. Sì, certo, negli ultimi 20 anni c'è questo cibo qua che a volte gli italiani non capiscono, c'è l'italo-americano cibo, che è un cibo americano inventato dagli immigranti di 100 anni fa, noi primi immigranti che sono venuti qua all'inizio del secolo, che non avevano gli ingredienti per fare i piatti, e questa cucina italo-americana esiste qua, è molto forte. Solo negli ultimi 20-30 anni si vede un po' la cucina italiana vera, che è iniziato con l'importazione dei prodotti veri, prosciutto di Parma, l'olio di oliva extravergine, aceto balsamico e certamente la mozzarella di bufala, la burrata, eccetera, eccetera. Allora, come sapete bene, la cucina italiana è molto legata ai prodotti. E quando fu arrivato i prodotti lì nei anni, primi anni 80, che veramente lancia la ristorazione a New York, la vera cucina italiana. Che immagine ha dell'Italia dei nuovi italiani, cioè degli immigrati che sono in Italia magari appunto da 20 anni, come lei è nato in America, ci sono, come saprà, molte persone straniere nate in Italia che però a differenza dagli Stati Uniti non hanno la cittadinanza. Che impressione si è fatto tutte le volte che è venuto in Italia? Beh, sai, Italia, come tutti i paesi nel mondo, devono essere aperti anche ai profughi, sai, ci sono limiti, ma noi abbiamo avuto la fortuna di essere accettati in America, profughi politici dopo una guerra, abbiamo fatto una vita qua, l'America è stata sempre molto aperta, l'America ha creato dei migranti, no, alla fine. Ma anche in Italia, no, io ho visto tanti o albanesi o africani che arrivano in Italia e trovano anche una vita lì. Non è sempre così semplice perché vari motivi politici, eccetera, specialmente adesso in questi tempi un po' difficili, ma la società che è aperta all'immigrante è una società più evoluta, no? E ci sta, secondo me. Sì, un straniero però che magari i cui genitori sono in Italia da molti anni e nasce in Italia, oggi un bambino straniero però non ha diritto alla cittadinanza italiana. In America è diverso, quando uno nasce sul territorio è americano. Sì, sì, queste sono le nostre leggi, se sei nato qui sei americano. Gli aspiranti chef devono dimostrare tutta la loro passione in cucina. MasterChef è la mia opportunità. Io voglio diventare il primo MasterChef d'Italia. Non si è stupito che la prima edizione di MasterChef Italia sia stata vinta da un greco? Questo è curioso, e anche quest'anno c'è una concorrente di origini thailandesi, quindi contaminazione anche in cucina, che nel caso di Spiros hanno funzionato. Beh, Spiros ha avuto quella cosa in più che in quella prima edizione ha vinto, perché è stato bravo, intelligente, capace, simpatico, una serie di cose tutte insieme. Sto anno vediamo chi vince, ma sai, io penso che un concorrente non è giudicato perché di dove è nato, è lì la capacità di giocare il gioco, di cucinare, è tutto lì. Qual è il segreto di MasterChef come programma, del suo successo? Molti dicono che è il fatto che propone delle persone vere, reali, che cercano proprio di trovare una professione. Il fatto principale è che è una produzione di altissima qualità, e nel vostro mondo televisivo quello è scarso. Allora, già un programma che si distingue nella qualità della produzione, la qualità dei autori, la qualità del set, tutto insieme dà un prodotto superiore assolutamente di tutti gli altri superiori prodotti. Secondo me, l'altra cosa che è molto potente è che si tratta del cibo. Questi aspiranti cuochi cercano di cambiare la vita tramite cibo, e secondo me quello ha un impatto molto forte per gli italiani che sono a casa, che guardano il nostro programma, perché tutti pensano che il cibo può cambiare la vita, è un concetto molto, molto positivo, molto forte. E prendono anche molto sul serio il fattore cibo, c'è una grande suspense. Assolutamente, anche in America, dove il nostro cultura di cibo è molto meno evoluta del vostro, ma anche qui c'è una grande tendenza, tutti sono in casa di più, c'è una grande ricerca per ingredienti, sai, il cibo diventa sempre più essenziale per la bella vita, anche in Italia, anche se la sensibilità di cibo per gli italiani è molto più essenziale, no? Perché tutti cucinano in casa, cucinano la mamma, la nonna, eccetera, eccetera. Ma questa capacità che MasterChef ha di trasmettere la passione, la razionalità di questi concorrenti che vengono da tutta l'Italia, è una situazione abbastanza è molto bella, molto televisiva, e il programma ha successo per quel motivo, secondo me. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Danny. Ho vinto. Rosico perché ha vinto Danny, non penso fosse stato il piatto da premiare. La pasta era scotta, o meglio, non era cotta all'interno, quindi se fai la pasta fresca e non la cuoci per bene, per me non puoi essere premiato. Chef, ho preparato per voi un soufflé alla caprese con una crema alle ciliegie. Un soufflé? Soufflé sta alto due dita dalla... All'inizio magari lo era, chef. È tesoro, però tu devi pensare che ci sono altre 18 persone. Avete ragione, chef, ho litigato pure col timer per questo. Ho capito, però tu non devi sempre trovare delle scusate. Avete ragione, cioè, alla chef. Fine, no, non c'è nessuna scusa. Devi fare un gran piatto se vuoi stupirci, no? Bene, vado all'assaggio. Questo è un dolce che si mangia in una pizzeria. Poi non è neanche tecnicamente un soufflé, no? Una sformata, qualcosa del genere, perché il soufflé deve prendere un po' di aria. Questo l'ha cotto in bagnamarina, questa? Bagnamaria. Il chef l'ha cotto in forno, solo che pensavo mancassero 5 minuti, voi mi avete chiamato 10 secondi. Secondo me tu devi smetterla di fare il ruffiano con gli chef e pensare un po' più ai piatti che fai, perché questo piatto non so dove ti porta. Lei appare un po' come un giudice spietato. Ho letto che ha lavorato anche un po' di tempo a Merrill Lynch prima di fare l'imprenditore nel campo della ristorazione. Beh, 20 anni fa, dopo l'università, ho fatto un po' di altre esperienze, no? Ma una breve esperienza a Merrill Lynch. Era un settore quello che poi ha rischiato molto, ha scommesso invece su una cosa che è andata molto bene, la ristorazione, rispetto alla finanza. Beh, la ristorazione alla fine della giornata sono quelli che spostano soldi per un percentuale e vanno a casa un po' vuoti. Uno che fa cibo, produce vino, fa la gente a contattare la gente nel ristorante, dà una soddisfazione emozionale, morale, vera, no? Allora c'è la tendenza oggi in questa situazione globale di seguire i lavori che danno una soddisfazione più emozionale, più vera. E poi è trasversale, ci sono gli aspiranti chef che fanno gli avvocati come gli aspiranti chef idraulici, quindi tutti possono approcciarsi alla cucina se ne hanno le capacità. Sicuramente, è lì, anche lì la capacità del format è che uno può essere un miliardario, un idraulico, un contadino, ma sono tutti giudicati sul piatto lì in fronte di noi, allora la chance, tutti hanno la stessa opportunità di fare un passo avanti nel mondo di MasterChef. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say. Ho trovato un video in rete in cui lei canta proprio questa canzone, It's Not Unusual, che evidentemente le piace molto. È consapevole di essere diventato anche in Italia un personaggio non soltanto televisivo, ma di cui si parla anche nei social network per il suo modo di parlare, per il suo modo di fare. Parlo così male che sono diventato famoso perché sbaglio, sì, lo so. No, non perché sbaglia, perché usa delle espressioni molto divertenti, simpatiche, quindi è diventato un personaggio. Anche per questo ne è consapevole? Sì, un po' sì. Allora, un'ultima cosa riferita al film che citavamo, perché prendiamo spunto da questo per il titolo del nostro programma, Indovina chi viene a cena. Ci sono due scene belle, lo conoscerai, un film dove un americano progressista si trova con una figlia che porta a casa un ragazzo di colore che intende sposare. L'hai mai capitato di andare a casa di una ragazza americana i cui genitori non sapevano che lei era italiano e magari di vederli un po' spiazzati, o gli italiani avevano una fama diversa? No, ma gli italiani sono sempre, anche l'italiano sempre considerato simpatico, una persona anche a volte se sono un po', gli americani li vedono un po' semplicioni, ma alla fine l'italiano per l'americano è sempre molto simpatico, e America ama Italia, ama cibo italiano, la cultura italiana e gli italiani. Tu hai 30 anni più di quelli che ho io, papà. Tu e la tua sciocca generazione credete che così come è stato per voi dovrà essere sempre. E finché tutta la vostra generazione non sarà sottoterra, non riusciremo a levarci dal groppone il vostro peso morto. Insomma, ti devi togliere dal mio groppone. Papà, tu sei mio padre. Io sono tuo figlio. Ti voglio bene. Te ne ho sempre voluto e te ne vorrò sempre. Ma tu ti consideri ancora un uomo di colore, mentre io mi considero un uomo. E invece ha mai detto a suo padre, c'è una scena del film dove il ragazzo di colore Sidney Poitier dice tu papà ti senti nero, io mi sento solo un uomo. Lei ha mai detto o pensato di suo padre, tu ti senti italiano, io mi sento americano? Ma io ho avuto sempre la fortuna di non avere il bisogno di puntarmi in un angolo o l'altro, nel senso che sì, io sono tecnicamente sono americano, ma io sto molto bene in Italia. Non so, forse un giorno torno a vivere in Italia. Io voglio che i miei bambini crescano un po' in Italia e crescano un po' qua. Allora per me ho la grande fortuna di vivere il meglio di tutte e due culture, quella americana e quella italiana. La puntata di oggi sta per terminare, ma prima di chiudere riepiloghiamo le ricette di oggi. Gnocchi in guazzetto d'anatra. Ingredienti per 4 persone. 700 g di petto d'anatra, un fegato d'anatra, un vasetto di pomodoro, 250 g di farina di mais integrale, una cipolla bianca di Chioggia, una costa di sedano, una foglia di alloro, 2 spicchi d'aglio, 100 ml di vino bianco secco, 2 chiodi di garofano, olio extravergine di oliva, 1 kg di patate farinose a pasta bianca, 3 kg di farina, un uovo intero, sale e pepe. Procedimento per gli gnocchi. Levate le patate e lessatele con la buccia in acqua salata. Scolatele, sbucciatele e passatele ancora calde allo schiacciapatate, lasciando cadere la purea sul vostro piano di lavoro ben infarinato. Unite alle patate schiacciate la farina, l'uovo e una buona pizzicata di sale. Lavorate il composto fino a quando risulta morbido, ma non tende ad attaccarsi alle mani. A questo punto dividete la pasta a pezzi e arrotolateli ad uno, lavorandoli con il palmo della mano, fino ad ottenerne dei lunghi filoncini che dovrete tagliare poi in tanti pezzettini cilindrici. Disponete gli gnocchi così ottenuti in un vassoio infarinato, facendo attenzione di non appoggiarli l'uno all'altro. Potete utilizzarli così, oppure, dopo averli infarinati, farli passare uno alla volta sui rebbi di una forchetta, premendo leggermente con il pollice, in modo tale da imprimergli le tradizionali rigature e da formare una piccola conca centrale. Procedere intanto alla preparazione del guazzetto di sugo d'anatra. Dividere la carne dal grasso della pelle e sezionare la carne in cubetti non molto grandi. Tritare grossolanamente il fegato dell'anatra. Tagliare la pelle in striscioline. In una padella far soffriggere nell'olio uno spicchio d'aglio leggermente schiacciato. Abbassare la fiamma per far raffreddare leggermente l'olio e aggiungere i pomodori e un pizzico di sale. Lasciar sobbollire a fiamma bassa per 10 minuti circa. Eliminare lo spicchio d'aglio e passare il tutto al setaccio a maglie fitte per eliminare le bucce dei pomodori. In un tegame capace, meglio se di coccio, inserire un filo di olio extravergine di oliva e le striscioline di pelle. Far cuocere a fuoco molto dolce per una decina di minuti, in modo tale che il grasso inizi a sciogliersi. Poi eliminare le striscioline di pelle. Aggiungere poi un trito di cipolla e di sedano, lo spicchio d'aglio con i chiodi di garofano conficcati e la foglia di alloro. Lasciare insaporire per alcuni minuti a fuoco dolce, quindi unire i cubetti di anatra insaporiti con sale e pepe. Rosolare tutto assieme e bagnare con il vino bianco. Lasciare evaporare, coprire e lasciar cuocere aggiungendo di tanto in tanto un po' d'acqua. Verso la fine della cottura aggiungere il fegato tritato. Terminare la cottura a fuoco dolce. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua bollente e salata e scolateli con la schiumarola appena affiorano in superficie. Condire con il sugo. Io ringrazio il nostro ospite Joe Bastianich, restaurant man e giudice di Masterchef. In regia Roberto Scaltritti, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.